La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Fino, diciamo, all'elementare era una bambina piuttosto timida e poi credo di aver avuto un'infanzia tutto sommato, anzi ero molto timida, e poi però ho avuto una felice carriera scolastica, nel senso che appartengo alla fortunata stirpe di quelli che ottimizzavano le ore scolastiche, quindi studiando relativamente poco sono sempre andata bene a scuola. Non ho mai, assolutamente mai immaginato che avrei fatto questo mestiere fino a un'età decisamente adulta, e quindi, come dire, non riesco a rintracciare nella mia infanzia nessun segnale in questo senso. Last thing I wanted from you, I closed the door behind me, and there you are. Così Lella Costa all'anagrafe Gabriella Costa si racconta una vita che procede con dolcezza: la famiglia, la casa milanese, i pomeriggi trascorsi a giocare. Niente fa pensare alla carriera teatrale, per lei estremamente timida, il futuro è fatto di studi umanistici e tante letture. Però qualcosa nel frattempo si muove. Sono gli anni 70 e Lella Costa va all'università. In qualche modo pensavo che avrei legato la mia vita. Io ho sempre avuto una certa facilità nella scrittura, parliamo di scuola, quindi robe appunto molto limitate, molto non particolarmente significative, se non quando ti succede appunto da bambina, tipo avevo vinto dei premi con i miei temi, quelle robe lì. Però mi piaceva molto l'idea della scrittura, della narrazione, questo lo dico ovviamente a posteriori. All'università ho fatto lettere e sono riuscita a fare tutti gli esami e anche in tempo giusto e con un'eccellente media, ma non laurearmi, perché a quel punto ormai avevo incontrato il teatro e non mi non avevo più tempo da perdere, per cui forse sì, mi immaginavo con una professione che in qualche modo avesse riguardato le parole, e devo dire che poi è andata così. Ecco, lei non è mai stata una che ha perso tempo, perché anche quando ha scelto il teatro non ha fatto teatro amatoriale, ha deciso subito di studiare bene. Ho deciso di studiare anche perché è stata talmente insolita la mia scoperta della vocazione. Io facevo università, frequentavo questi corsi che avevano a che fare, insomma, io non seguivo corsi di psicoterapia o di psicanalisi, però mi affascinava molto questa cosa. Facevo parte di un gruppo di studenti, volevamo aprire un consultorio popolare di psicoterapia in un quartiere di Milano. Durante queste lezioni, che erano in parte teoriche ma in parte anche pratiche, dovevamo interpretare, no, il ruolo o del terapeuta, insomma, fingere un colloquio simulato, interpretando questo ruolo di ragazza problematica, ho avuto un tale successo, ignoravo di avere questa qualità, che tutti mi hanno detto: ma tu dovresti fare l'attrice. E allora ho pensato che quando si ha un'epifania così clamorosa forse vale la pena andare a vedere, per cui mi sono iscritta, ho fatto l'Accademia dei Filodrammatici, ho fatto il corso con quelli di Grocco, facevo i seminari notturni di Grotowski, insomma ho studiato la commedia dell'arte. Ho fatto un po' di scuola e mi sono anche presa un bel po' di tempo prima di capire che forse la mia identità professionale poteva passare attraverso anche la scrittura delle parole, quindi io non sono mai stata, o l'ho fatto molto poco, un interprete in senso tradizionale, un'attrice in senso tradizionale, quindi in realtà credo di essermi presa del tempo e magari da un certo punto di vista averlo anche sprecato tra virgolette, ma sono molto contenta di aver fatto tutto questo percorso. Lei ha iniziato, diciamo, comunque è diventata famosa grazie soprattutto ai monologhi e soprattutto al fatto di aver creato un'immagine di donna reale, insomma, nella quale io mi posso identificare, e quasi tutte le donne, no, anche di diverse generazioni si sono potute identificare. Ma più che altro credo di aver avuto, non so, l'intuizione, e forse anche, non è che voglio darmi dell'aria, ma un minimo di coraggio di aver fatto una cosa che non hanno mai neanche fatto tanto i maschi, diciamo così, gli attori comici nel nostro paese, cioè quello di salire su un palcoscenico senza il diaframma, o comunque senza la maschera di un personaggio, no? Cioè, un conto è interpretare, penso all'immensa Franca Valeri, alla sua signorina Snob, piuttosto che alla Sora Ceccioni. Io i personaggi o le macchiette, diciamo così, le cito, ma salgo su un palco e sono io che racconto, e forse questa è stata la vera novità, cioè questa cosa che in altre culture teatrali esiste di più, penso sostanzialmente agli anglosassoni. Forse sono così, anche abbastanza riconoscibile per questo, e il fatto di raccontare cose che mi stavano vicine, insomma, che stavano intorno a me, quindi mediare dall'esperienza da ciò che si conosce, mi ha permesso forse di avere questo approccio, appunto, in cui il pubblico, soprattutto ovviamente il pubblico femminile, si può identificare, diciamo che può capire bene a quello che sto dicendo e magari sovrapporre le proprie esperienze e il proprio vissuto a quello che sto raccontando io. La prima rosa rossa è già sbocciata e nascon timide le viole mammole. La carriera di Lella Costa è dunque iniziata. La ragazza sarà sempre più capace di reggere il pubblico e alla fine si esibirà, lei, in partenza tanto timida, in un monologo che le regalerà un grande successo. Così, parlando di donne, di famiglia, di figli, di temi che riguardano ognuno di noi, la Costa apre dibattiti e lascia, soprattutto noi donne, più leggere. Se la bambina mentre la porta a scuola vi chiede a mamma: mami, ma com'è che tutte le mattine quando mi porti a scuola ci passa davanti il camion dell'immondizia? Perché mia figlia mi fa questa domanda? Che cosa mi sta chiedendo veramente? Che cosa rappresenta per lei il camion? E il fatto che lo incontriamo tutte le mattine è una rassicurazione o invece qualcosa che la turba? E forse la turba particolarmente perché è il camion dell'immondizia? Forse la mia bambina si identifica con l'immondizia? Forse è in una fase anale particolarmente conflittuale, quindi vive come immondizia i suoi stessi rifiuti, quindi ho sbagliato tutto, Dio, Dio. Forse si vive come immondizia perché si sente una donna e forse io non l'ho abbastanza sostenuta nel suo ruolo femminile, ma è un disastro, dovrebbe andare in terapia io, mia madre, mia sorella, mia nipote, quella stronza di mia cognata che sono sicura che dice tutta crepè crepè. È il vero incubo delle mamme italiane, crepe. Che qualcuno avvisi crepè, che tu non sei all'altezza delle aspettative, un incubo. Abbiamo bisogno come genitori di certezze che in noi non sappiamo trovare, infatti ci hanno insegnato che dobbiamo dire ai nostri figli i no che aiutano a crescere, sì. Che aiuteranno a crescere loro, ma non ci fanno invecchiare precocemente, perché la creatura non accetta tanto facilmente il no, e soprattutto i nostri figli hanno questa capacità, cioè, gli dai una punizione, ma una cosa minima, tipo stasera non esci, cioè tu mi stai dicendo che io questa sera, che è sabato, non posso uscire. C'è Dickens, c'è tutto Dickens dentro questi bambini, c'è lo sfruttamento del lavoro minorile, c'è la sofferenza, c'è che gli sono stati venduti, sono bravi, sono troppo bravi. Infatti il genitore italiano annaspa e arriva al punto, e questo credo che dia la misura della tragedia educativa ma anche proprio relazionale, arriva al punto di rivolgersi, di tirarsi in casa personaggi come Tata Lucia. Ora io non so cosa pensiate voi di Tata Lucia, io piuttosto che far incontrare un bambino con Tata Lucia, ma guarda, piuttosto il lupo cattivo, l'uomo nero, lo sgabuzzino con le scope, Tata Lucia con quello che dice, con quel sorriso, con quelle calze, ma come si fa a tirarsi in casa una come Tata Lucia? La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Dopo gli studi in lettere e il diploma all'Accademia dei Filodrammatici, Lella Costa esordisce con il suo primo monologo da attrice nel 1980. È la sua prima volta. Primo monologo nel quale appunto quindi ha debuttato, cioè lei se lo ricorda, si ricorda... Porca miseria, anche perché non era scritto da me, era stato un incontro meraviglioso con una che era un'autrice, regista, esordiente anche lei, quindi era stata proprio l'avventura della vita, parliamo del 1980, quindi insomma è passato un bel po' di tempo, si chiamava Repertorio, cioè L'orfana in reggicasso, e l'autrice regista era Stella Leonetti, con cui che è ancora una mia amica cara, anche se poi magari non riusciamo a concretizzare i nostri progetti comuni, ma prima o poi ce la rifaremo. Ed era proprio una specie di, appunto, di repertorio, era molto autoironico, molto ironico, in cui una ragazza alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, caratterizzata da situazioni di precariato che voglio dire, non sono sostanzialmente cambiate, nonostante sia passato un bel po' di tempo, quindi precariato lavorativo, una casa precaria e un precariato sentimentale anche, facevo una specie di, come dire, di elenco, ecco, di esame degli elementi della vita, era molto ben scritto, io credo che sia stato un buon esordio e mi ha fatto anche capire che effettivamente la condizione di solitudine sulla scena non la vivevo come una limitazione, ma anzi come una grandissima opportunità, e poi più o meno ho continuato sulla strada. Sono le donne che la incoronano, sono loro che la vanno a vedere, Lella Costa cresce e di spettacolo in spettacolo diventa sempre più brava. Così nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il trillo, senti il trillo, sa dopo sentire queste note così basse che so fa. E poi vado su, vado su, vado su. Tra l'altro lei, appunto, per ribadire questo concetto, è veramente molto amata dalle donne, cioè è proprio un personaggio che le persone sentono molto vicino, anche perché è stata forse una delle prime a raccontare in maniera anche disincantata certi temi, la maternità, insomma, alcune cose sono state affrontate secondo me in maniera non superficiale, in maniera approfondita, però anche togliendo quella patina da Marion di Happy Days, no? Meno male, un bellissimo complimento. Ma sì, l'idea era proprio quella. Devo dire che è ovvio che con me è quasi scontata l'identificazione o comunque il gradimento, soprattutto da parte del pubblico femminile, però devo anche dire come dato oggettivo che il 70% del pubblico del teatro è comunque costituito da donne, quindi magari io posso toccare dei picchi un pochino più alti, ma è così che funziona nel nostro paese, forse non so altrove, esattamente come per quel che riguarda la lettura piuttosto che la frequentazione di dibattito, esiste una maggiore presenza femminile. Io ho sempre cercato, ma proprio perché mi somiglia di più, appunto, di affrontare anche temi seri, mi è capitato di raccontare grandi classici come Otello, Amleto, anche Traviata, non rinunciare, cioè non sottrarmi alla parte drammatica, ma di non cercare di non perdere mai il passo della leggerezza, che per me è una delle lezioni di Calvino più preziose, ecco, perché penso che si possa, forse in qualche misura si debba affrontare anche il peso della vita, anche le questioni più serie, più gravi, senza però necessariamente appesantirne la forma. E in questo senso, insomma, credo che poi forse questa sia una delle caratteristiche che il pubblico riconosce di più in me, ecco, non perdere quello sguardo e quel punto di vista narrativo su ciò che vado a raccontare. E questa leggerezza lei è riuscita a mantenerla anche, diciamo, nella sua vita privata, nel senso che è riuscita sempre comunque ad avere questo passo leggero anche davanti, non so, al ruolo di madre. Ogni madre ha dei momenti in cui, appunto, deve affrontare delle difficoltà, cioè come se l'è cavata lei? Ma guardi, io faccio sempre un po' fatica a parlare della mia vita, proprio poi considero il rapporto con le mie figlie la cosa più importante e preziosa della vita medesima. Ovvio che no, cioè non quello che puoi fare è cercare, come dire, passata la tempesta, nei momenti di crisi un po' meno acuta o di dolore un po' meno intenso, di provare a cambiare punto di vista e provare a sdrammatizzare, ma sicuramente ci sono momenti, circostanze, soprattutto quando sei di fronte al dolore e alla sofferenza dei tuoi figli, in cui non riesci, almeno io non riesco né a sdrammatizzare né men che meno a chiamarmi fuori o ad assumere un atteggiamento obiettivo. Quello che ho sempre cercato di fare è non confondere, non so se ci sono riuscita, per carità, ma però mi ci sono veramente molto applicata a non confondere i piani della vita, cioè quello, il mio mestiere è un mestiere meraviglioso, ma è il mio mestiere, finito, cioè si fa la sera, si fa durante le interviste, ma in casa non si cerca di non portare alcuna traccia e soprattutto alcun atteggiamento, e quindi di essere il più autentici possibile con i figli, assumendosi anche tutti gli errori e gli sbagli che inevitabilmente fai, però li ho fatti io come mamma e non spero proprio di non averli fatto come personaggio. Adesso cosa sta facendo? Quali sono i progetti? Ma adesso dunque sto facendo, è un anno molto difficile ovviamente anche per il nostro mestiere, anzi in particolare per il nostro mestiere, perché a torto o a ragione in questo paese cultura e spettacolo vengono considerati tra le spese superflue e quindi insomma è un momento difficile, ma non mi sto lamentando per me, mi domando quanto sia per certi versi un po' dolosa e per altri consapevole la scelta di affossare completamente questo grande patrimonio, questa grande risorsa, ma comunque questo è un altro discorso. Quindi sto facendo tournée con ancora spettacoli miei degli ultimi anni, sto ancora facendo promozione di questo mio librino che è uscito qualche mese fa e che è proprio un piccolo saggio sull'ironia pubblicato da PM, si chiama Come una specie di sorriso, e sto partecipando in forma di eventi come li stiamo facendo ora a questo progetto di Serena Dandini che si chiama Ferite a Morte, e che invece riprenderò proprio con una formula teatrale, quindi quattro attrici, tra cui io da ottobre prossimo. Che ha a che fare con la violenza. Sì, è uno spettacolo su, è una testimonianza in forma di, come dice Serena, è uno Spoon River del femminicidio, cioè sono tante storie di tante donne, questo simpatico esempio di globalizzazione che per cui gli uomini uccidono le donne in tutto il mondo, e quindi anche lì con una capacità di Serena Dandini e quindi un'intesa anche molto forte in questo senso di provare anche a non essere sempre drammatiche e tentare a volte la carta del surreale o del grottesco, perfino dell'ironico, quindi non raccontare tutte le storie, che sono tutte ovviamente storie drammatiche, alcune storie sono talmente drammatiche che non si possono ovviamente raccontare altro che in termini drammatici, però c'è anche questa, non si rinuncia del tutto a, proprio perché è uno spettacolo, quindi si rivolge a un pubblico che deve anche essere in qualche misura intrattenuto, come insegna il grande Shakespeare, ecco, anche nelle situazioni più drammatiche non si deve perdere laddove si può il passo più lieve. La prima volta termina qua. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che potete riascoltare la puntata in podcast. L'indirizzo per scriverci è laprimavolta@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook. Buona giornata a tutti da Cristina Carpinelli. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà.